non mi ricordo più, 167. 8. O 68? 160. Ah, come aspetta, le pagine del libro? No, le pagine del libro sono 217. Aspetta che me lo dice. Ah no, basta guardare su... È sul sì, intanto tu guarda sul blog, intanto tu fa la foto, intanto io introduco la puntata. Siamo, al 167esima puntata, oggi è il 13 gennaio. 167esima, hai capito, siamo da quanti minuti? Però volevo dire che sappi che oggi è venerdì 13, c'è gente che sta peggio di te. Ah, non saprei, guarda, ho avuto una giornatina che te la raccomando, però questo voglio farti sentire il suono, abbiamo sentito il suono della voce, questo è il suono del pensiero di Masotti. Pensa velocemente, Masotti, bravo. Il pensiero che è diventato, siamo qui perché è uscito l'ennesimo libro di Masotti l'ennesimo sugli Umarels. Esatto. Come mai, cosa siamo, al quinto libro degli Umarels? No, il secondo Il secondo perché quelle erano tutte ristampe di colori diversi, giusto? Sì, ci sono 6 ristampe del primo. Ah, per cui questo è il settimo. E questo la è... crisi del settimo anno. No, questo è proprio il secondo. Questo è dopo 10 anni di Umarels e allora è arrivato. Sono già passati 10 anni. E si intitola, pensa un po', Oltre il cantiere, fenomenologia degli Umarels. E questo è veramente un testo estremamente innovativo, contiene anche raccolte iconografiche e non lo so, poi la parte finale, che cosa mi dicevi, che sono proprio opere d'arte? Sì, ci sono proprio delle all'interno del libro sono delle opere d'arte che sono proprio i cartelli che gli Umarels scrivono nei condomini. Ma e ci sono scritte, siccome voi vi occupate di arte, e quindi qua ci sono proprio le tecniche con le quali sono stati utilizzati i cartelli e i materiali. Ma sai che venendo in qua in mezzo alla nebbia di via Zanardi stavo proprio pensando questa cosa, che secondo me tu sei un artista contemporaneo. Ah, perché? Ma... c'erano dubbi? No, perché? Perché no, ci sono dei dubbi. Sai perché? Esatto. Non viene capito. I dubbi sono tantissimi. Davvero, no? Però perché la frase più che più spesso viene rivolta a Masotti è: ah, ma un libro così lo sapevo scrivere anch'io, che è esattamente la frase che riceviamo noi artisti contemporanei. Ah, ma una cagata del genere di mettere un televisore per terra, lo sapevo fare anch'io, capito? Però perché non l'hai fatto? Esatto, la domanda a cui non sanno rispondere è quello. Allora potevi farlo prima te. Comunque, mio caro Danilo e mio caro W, visto che sono di qua, del vetro, sai che mi piace fare le cose con ordine, adesso che abbiamo introdotto il nostro ospite, abbiamo introdotto il tema di cui tratteremo, perché questa puntata si godrà... Che tema è? Scusa, io si godrà il secondo libro sugli Umarels. Ho capito, sì. Cominciamo con un brano per poi... Cominciamo con un brano a proposito di gente che comunque ha delle vicissitudini un po' particolari. Questo è un brano di Abigail Kane. Che è sempre quelle con le vocine. Ma lei è fantastica. Lei è fantastica. Se la vocina è fantastica. E che dedico con tutto il mio amore alla Maria Angela Ghiselli. Va bene? Va bene. Lo parto. Partilo. Forse. Insomma, Fedra, ti annoi con questa musica, ma questo è un brano inedito con una voce della Madonna. Ma sei sicuro che piaccia alla Ghiselli? No. Ah, ecco. Vabbè, ma quello cosa c'è? No, dico che è bellissimo, però come io non porto i brani dei miei cantanti con le voci meravigliose, perché sono un po' poco, sai, come dici tu, fanno... Ma cerchiamo di non essere autoriflessivi. No, infatti, appunto. E siamo qui alla 167esima puntata. E abbiamo un enorme star da poter spremere per tutto il corso del programma. Esatto. E visto che ce l'ho qui di fianco a me, il dottor Masotti, Danilo Maso Masotti. Ma è dottore? Dottore in pediatria? No, giusto? Ma ce lo diventa dottore, anche se non lo è. Nel senso, con questa ricerca. Una laurea. Speriamo. Una laurea. Honoris causa. Però adesso sono ancora giovane. Dammi il tempo di diventare direttore di un'accademia e poi te la mollo subito. No, perché grande. In realtà, allora, famosissima, cioè interessantissima la coniazione di questa terminologia, l'Umarels, che identifica proprio un qualcosa. Perché me la... È perché tu urli troppo, sei troppo vicino al microfono. Non lo so. Allora mettiamolo così. Non è una cosa che io dovrei dire in diretta. Ma regolo i volumi, non il volume. È regolo tuo, appunto. Va bene. Allora, io voglio andare alle origini, te l'ho detto. Come nasce questo, cioè l'individuazione del tuo soggetto della ricerca, che è l'Umarels? L'Umarels, allora, per prima cosa, gli Umarels sono sempre esistiti. Esatto. Io non è che li ho inventati. No. Io ho detto però, ma quello lì è un Umarels. E l'ho fatto notare a tutti quanti. E quando è successo che l'hai detto la prima volta? Questa cosa l'ho detto per la prima volta, era nel... 1982. Nel 2005 è stato. 2005, sì, 2005, che ho visto il primo Umarels. Io mi trovavo davanti al cinema Star City. Mi sembra giusto. All'epoca, come ben ricorda Stefano, avevo il mio blog Lo Spettro della Bolognesità. Cioè era spaventoso. E allora ero lì che stavo facendo delle fotografie al cinema Star City, in attesa di che arrivasse un mio cliente. Era febbraio, mattina, quindi c'era il gelicidio, che non si chiamava ancora così. Però è vero, oggi hanno coniato questo però nuovo. Però c'era il gelicidio. Cos'è il gelicidio? Il gelicidio è la pioggia che ghiaccia. E si scivola, come dicono. E si scivola. Allora, in questa giornata di gelicidio di febbraio, io ero in questo piazzale del cinema Star City. C'era un Umarels che stava passeggiando col suo cane. Gli stava facendo hanno fare... spesso il cane? Sì, c'è una tipologia di Umarels al cane, quindi cioè l'Umarels che si sveglia presto, gli piace svegliarsi presto, quindi svegliarsi presto e portare fuori il cane a fare la pipì è una cosa molto molto bella. Allora c'era questo Umarels che passeggiava lì vicino, mi ha visto che facevo delle fotografie e si è avvicinata a me e mi ha detto: scusi, lei cosa sta fotografando? Perché l'Umarels controlla il territorio. Chiaro. E io ho detto: ma sto facendo delle fotografie. Non gli ho detto per internet, perché nel 2005 la parola internet era sospetta, ma più che altro se gli Umarels guardavano i telegiornali, ogni volta ad internet erano associate delle cose brutte. Ah, giusto. Cioè, è vero. Pedofilia, sì. Furto delle carte di credito, furti, insomma, delinquenti. Esatto. Ti saresti giocato la frequentazione. Allora, c'era gente che su Foursquare diceva: sto andando in vacanza, e gli andavano a svaligiare la casa. Esatto. No? Così. E allora, già che vi ho interrotto, cioè, sì, abbiamo un messaggio: viva gli Umarels, ciao Raio. E poi gli Umarels non ci sono più, perché adesso nessuno vede, nessuno sente. Scrive sempre Raio. Ma è tornato Raio. È tornato Raio, è con miracolo, anche una nuova valenza politica. No, nessuno infatti vede, nessuno sente. Nessuno grande vede, Raio, nessuno sente. Ma non è vero. No, questo, infatti. Dai, cioè, questo, beh, questa cosa però mi fa ripetere anche 333. Diciamo che siamo più distratti. Diciamo che siamo più distratti. Diciamo che siamo più distratti. 333. 180 94 94. 333. 180 94 94. Che siamo più distratti. Siamo più distratti. Abbastanza. Adesso abbiamo creato il vuoto radiofonico, vuoto, sul sì, quale puoi ricominciare. E ricomincio, quindi... No. Cos'è? Un momento. È un momento... Ci voleva per creare ulteriore vuoto bello, cosmico. È stato bello. Grazie, ho pianto. No, però va bene, perché questo è un po' con tipo fine primo tempo, inizio secondo tempo. Ma in realtà saremmo arrivati al primo Umarels col cagnetto che ti chiede: ma cosa sta facendo lì? Allora io gli ho detto delle foto per internet, gli ho detto delle fotografie per un giornalino. Allora lui è stato tranquillo. Poi dopo è arrivato questo cliente che io stavo aspettando, mi ha caricato in macchina, io con me avevo uno di quei giornali Free Press che c'erano una volta, quelli Leggo, sì. Allora io ho preso questo giornalino e l'ho messo dentro a un cestino del Rusco, di quelli rossi, però con fare sospetto. In modo, hai un po' l'aspetto sospetto, eh? Sì, un po'. In sì. modo che l'Umarelle poi andasse a vedere cosa aveva messo dentro. Ha fatto apposta, sì, ho fatto così. Allora ho pensato, mentre ho visto l'Umarelle che è andato a vedere, socio, che Umarelle sto qua. E ho pensato così, socio Umarelle. E poi al pomeriggio scrissi un post dove raccontai questo episodio che vi ho appena raccontato. E tutti dissero: ah, oh, sì, è vero, gli Umarelle, sì, sono così, anche da me ce n'è uno. E poi dopo ho iniziato a fotografarli, e poi la cosa, insomma, diciamo che ha preso una piega e ho perso il controllo. E a proposito di fotografia, colgo il gancio per ritornare su questo secondo volume, che si presenta proprio come una collezione iconografica. Come una collezione iconografica. Quindi c'è da leggere, ma c'è. Lettura. C'è da leggere, ma c'è anche molto molto molto da vedere. Dico bene? In ogni pagina c'è un'immagine corredata. C'è un'immagine corredata da una didascalia. Ma c'è anche masottiana. Non ci sono le foto, anche non c'è il mio Canarel che no, era stato pubblicato. No, il tuo Canarel. L'edizione 5,4. No, non c'è, però qua c'è una nuova tipologia di Gattarel. Ah, fantastico. C'è una foto molto bella di un gatto. Io comunque ricordo sempre sullo No, era già nel sito, era già nel blog degli Umarelle. A un certo punto ho visto un giorno ho cliccato, ho visto l'immagine della Zdaura Spider-Man e sono cascato sì. dalla sedia dal ridere. La Zdaura Spider-Man, ecco, che è una delle foto proprio più belle del mondo, proprio. L'ho messa in questo libro. Vediamola. Poi la pubblichiamo su www.coxospaziale.blogspot.com, dove sarà possibile anche riascoltare questa puntata. Postiamo la foto della Zdaura Spider-Man. Quello è il Gattarelle. Sì, questo è il Gattarelle. Che meraviglia. Che è una foto molto bella perché c'è un gatto che guarda un cantiere. Ma lo fanno spesso i gatti di avere quell'atteggiamento? No, ma gli piace proprio, perché tutti possono essere Umarelles, capito? C'è un messaggio dalla Claudia Basso che dice: c'è la Martina real time, il che significa che non sta ascoltando Coxo Spaziale, ma sta guardando real time. Oh, perché ecco, devi qua. Sapere che c'è mia nipote che sta facendo Bake Off, com'è che si chiama? Non lo Bake so, Off che Italy. Cos'è? È un programma è un programma di cucina per bambini. Ah. E c'è nipote, Martina. Intanto che tu raccontavi questa cosa, ti il mando nostro ospite la Zdaura Spider, grande. Così te la... Mandami la Zdaura Spider. E io, visto che è arrivato un altro messaggio, rilancio 333 180 94 94. C'è dei gran messaggi. Allora, leggiamo dei gran messaggi. Vaga scaletta. Stasera c'hai proprio un jingle ritmicissimo. Complimenti. Grazie. Ma sai com'è? Io di solito, se mi impegno, no, poi più che altro quando c'è poco contenuto posso concentrarmi. Vai con i messaggi. Mi è arrivato un messaggio nel mio cellulare. No, sono io che te l'ho mandato. Ho mandato la Zdaura Spider. Ah, in più mi dice che la batteria è bassa. Molto bene. Claudia Basso che ti saluta. 333 180 94 94. Anzi, io saluto anche Jack Romanetti, detto anche Giampiero Bandini, che so che è malato, allora sarà lì sicuramente, è lì che ci ascolta. Che cosa, all'influenza. Ha detto che lui non si ammala mai ed erano 5 anni che non succedeva. Ma quest'anno si è ammalato. Esatto. Beh, bella sta storia. Succede. Che cos'è urlo donna? Fammi vedere. Ma cos'è? È un urlo. Ma è urlo donna. È un pezzo di Frank Zappa. C'è anche tutto il resto del pezzo. Due minuti? Sì, perché poi comincia il pezzo di Frank Zappa. Ah, molto bene. Beh, comunque, ritornando... Siamo in piena... Creatività generica. Sì, esatto. Creatività generica riorganizzata in forma... Smagliante. Sì, in forma di fenomenologia. Addirittura. Sì. Il sottotitolo di Oltre il cantiere, che è il titolo di questo secondo libro dedicato agli Umarelles del nostro super mega galattico ospite Danilo Maso Masotti, sì? è fenomenologia degli Umarelles. Ed infatti una cosa che alla prima sfogliatura mi ha subito colpito è stata la prima parte fenomenologica, con una raccolta di posizione delle mani dietro la schiena. Quindi si parla proprio di uno studio di questa modalità dell'essere umano che viene quasi smembrata in attitudini, modalità e anche in piccoli segni e visioni. Sì, sì, in questo libro molto antropologico. La prima sfogliatura mi ha colpito. E anche a me in, l'italiano in questo libro c'è la, è studiata la postura degli umarels, dove ci sono tre macro posture. Io ho studiato, cioè, ci sono tre posizioni, la 1, la 2 e la 3, e ce n'è una quarta che è derivativa dalla 1, la 2 e la 3. La 1 è difficile spiegarla alla radio, ma ci proviamo a farlo. Mani dietro la schiena, le dita si intrecciano tra loro. Questa è la posizione 1. E schiena leggermente gobba, o sbaglio? Nella sì, parte sì. alta delle, certo, delle scale. Un po' come e poi faccio io, la solo. Posizione 2, le mani vengono poste dietro la schiena, una mano stringe il polso, l'altra giusto. Viene lasciata libera. Questa è la posizione 2. Questa due. Sarebbe e più che la mia. E alle volte è quella dell'umarel fumatore, perché con la mano libera tiene la paglia arguto. Tra le dita. Potrebbe essere una 2 bis? No, questa è in realtà è la 4 che spiegherò dopo. Ah, okay. Però è interessante questa, perché questa potrei utilizzarla per certe cose. È interessante questa cosa della sigaretta. Bravo, grazie. Una bella intuizione. Invece la numero 3, le mani vengono poste dietro la schiena, una mano stringe il dito indice o una delle altre quattro dita. Quello a scelta. Alle volte succede anche a me, tristemente. A me succede la seconda invece, prendo il polso. Ah, ma perché tu sei una fumatrice. No, veramente no. E invece la posizione 4 è la 1, la 2 o la 3, dove però si tiene più un oggetto a scelta. Quindi, tipo il mazzo di chiavi di David. Esatto. Perché poi le illustrazioni le riconosco, perché sul ponte di Stalingrado me lo sono trovato a fare sto disegnone di fianco. Allora, ponte di Stalingrado, cioè un'opera, insomma, un'opera notevole. Ci sono state molte critiche. Dio bono. Molti. No, c'è stato tutto un movimento di riganeristi contro, sì. Com'era gli altri, i, non mi ricordo più. No, avevo trovato dei termini. C'era fantastici. La riga nera, così no, però c'è molte critiche, molti elogi, e alla fine non si è parlato d'altro. E in quell'inizio di ottobre, insomma, è stato messo in evidenza che in questa città comunque non ci sono dei grossi problemi. Ah, ecco, certo. Sì, quindi insomma si è parlato solo del muro e sì. della riga nera. Comunque di tutte le foto che hanno destato più scalpore per quelle che riguarda quello, sì? il mio intervento, ce n'è una che su Facebook ha destato molto scalpore, perché c'erano due neri e una ragazza bianca che passavano lì davanti. E allora quella lì è stata quella che è stata sì, quella è la foto che è stata criticata maggiormente. Accidenti. Perché sai com'è, vengono qua a passeggiare con le ragazze, esatto, ragazze a passeggiare bianche. Con le nostre donne, con le nostre, con donne. Le nostre donne, beh, diciamo. Bene, a questo punto potremmo lanciare un brano di Bello Figo, se ce l'hai. Se no, lo ascoltavano in autobus mentre venivo qua. Sì. No, io l'ho sentito ieri l'altro per la prima volta, lo volevo spedire alla mia collega di arte contemporanea, perché secondo me lei non l'ha ancora visto e che veramente merita. Livello, no, non livello pago altissimo. Affitto. Non pago affitto, non faccio praio. Esatto, non faccio praio. Che rido. Va bene, ti ha perso il filo. Allora, vi faccio un esempio di quello che potremmo trovare contenuto in questo libro, perché dire che è dedicato unicamente agli umarels è un po' riduttivo. Sì. Dico bene? Sì. Dici sì, benissimo. Sì, sì, sì. Allora, proviamo a leggere una didascalia a caso. E voi provate a dirmi, ovvero tu Pasquini, oppure chi vuole mandarci un messaggio al 333-180-94-94, di quale è il profilo che va ad identificare. Lo spettacolo della rimozione forzata di un autoveicolo è molto apprezzata sia dagli umarels di tutte le età che dalle zdaure. Come si chiama questa categoria? È un po' difficile. È un quiz. Prima una didascalia a caso. Si chiama così? No, si chiama prima filares. Prima filares, gli umarels in prima fila. Se fossi uno scopinculista avrei qualcosa da ridire. Ma sì, che cosa? No, vai. No, mi è venuto in mente. Prima filares mi è venuto in mente gli scopinculisti, che dico, ma scusi, in realtà ero qui prima io. No, questa è un'altra cosa molto importante di Oltre il Cantiere, perché... Allora, gli umarels sono stati identificati come i pensionati con le mani dietro la schiena che guardano i lavori stradali, però qua si va oltre il cantiere, esatto. E quindi queste manie, tipo questa che ha appena detto Stefano, che è quella di essere il primo della fila, non importa quale, cioè l'Umarell deve arrivare primo, quindi esatto. Se tu vai dal dottore lui è già lì, è già lì. Cioè, se tu vai alla COP E lui è già lì, è ovunque. Qua eccolo anche... qui, Educarels si chiama in questo caso. Essere il primo della fila, non importa quale, sì, ma per l'Umarels donne e bambini hanno e avranno sempre la precedenza. Quindi, ok, questo si chiama Educarels. Educatarels. Va bene, a questo punto io con la dislessia è vi difficile, saluto. Difficile, tra difficile. L'altro abbiamo due minuti, un minuto di Zino e poi la super mega galattica pubblicità delle 9:30. Mosciuccio di Gian? La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. In vita mia ho incontrato tanta gente. L'altro giorno, mentre mi stavo godendo l'aria fresca del lungomare Adriatico, mi sono imbattuto nel grande architetto celeste. Ci siamo fatti un amichevole cenno d'intesa e subito mi è venuto da pensare a quanto può pagare di IVA un tizio come lui. Nel frattempo i popcorn stavano esplodendo nel microonde e così sono dovuto correre dritto in farmacia ad acquistare quel libro talmente bello che ne fanno la pubblicità in televisione, in particolare il venerdì sera, quando Pasquini si trova in radio e i bambini sono per fortuna tutti a letto. Mi devo ricordare di innaffiare le piante, anche se esattamente non so se le piante hanno bisogno di essere innaffiate dopo la neve. Spesso la gente parla del tempo che fa per non pensare a quello che passa. Così ora mi faccio un tè verde, bello caldo, e continuo ad ascoltare Coxo, rivelandovi un gran segreto. Sapete cosa c'è tra il dire e il fare? Lo sbattimento. Stai ascoltando Coxo Spaziali? Quando chiami il call center della Cox spaziale. Si preoccupa. C'è il rischio Sarno? C'è il rischio Sarno? Ah, il rischio Sarno c'è sempre. Che succede qua? E cosa dici, Roberta? Gli dico che è ricominciata la diretta oppure? È ricominciata la diretta. È ricominciata la diretta. Stavamo chiacchierando, scusate. Stavamo parlando del rischio Sarno. Ragazzi, c'è insieme a noi un'altra voce femminile, una voce che è una grande amica del Coxo. No, niente. Una gran coxa? È stata anche co-conduttrice coxica. Dicevo con... È abbastanza brava. Esatto. Sì, è vero, una grande artista. Mio padrone è un somaro. Uno, perché mi fa pisciare sul tuo cancello. Due, perché poi fa la ruggine. Ma questa è la voce di Pasquini o di Danilo? È bellissimo. Pasquini. Non sapete leggere o ve ne fregate della sicurezza? Allora chiudiamolo con le mani questo cancello. E praticamente, Roberta, Stefano sta leggendo... I cartels. Che sono una sezione del nuovo libro di Masotti, dedicato al mondo oltre il cantiere. Sentivo parlare appunto di elementi da cantiere, quindi sì. Avevo già capito che il riferimento era a Danilo, che poi seguo con piacere su Facebook. Sì. Confermo. Ecco, seguiamo la vicenda. E tu Danilo la segui, la Roberta? Cavolo. Quindi saprai tantissimo. Perché è qui. Io, Roberta e altre persone delle quali non posso fare i nomi, abbiamo delle chat segrete che tipo la Daniela Eroso, molto potenti. Federico Croce. Allora, Danilo, tu che noi ci seguiamo, tu mi segui, io so che è uscito, insomma, uscirà anche questo serial TV di episodi web sì, sul cantiere. Sì. Che cosa è uscito di mio recentemente? Vediamo ecco, se si è preparato. Beh, è uscito il singolo di Roberta Giallo. L'ultimo singolo che preannuncia... che si chiama Amor... aiutami. No, allora, il secondo singolo, In amore muoio di frontale. Esatto. La parola amore c'è. Pensavo che si chiamasse Onde evitare di far entrare lucertole e topi, grazie. Ma quello magari in un'altra vita, perché poi non basta una vita per un... Per mettere al mondo tutti i vari progetti, però questo singolo anticipa un album, giusto? Questo Danilo. Esatto, anticipa l'album che è L'oscurità di Guillaume. Come si dice? Guillaume. Esatto. Guillaume, ce l'ho uno studente che si chiama Guillaume. in questi giorni. Ah, sì? viene da la com'è che si chiama? Latina. No, un po' una colonia francese. Guglielmo versione francese. Ah, non la ciudad. Ah, così mi hai detto come si pronuncia Guillaume. Guillaume. Togli il sistema di antifurto nelle ore di riposo, suona e disturba. Punto. A capo taglieremo le gomme. Ok, cosa dici Roberta? Abbasso il volume degli ospiti e ce la finiamo tra di noi la chiacchierata. No, in realtà puoi abbassarlo al limite un po'. Danilo ci stava aiutando, abbiamo un Pasquini scatenato invece che... Ma è da tanto che non ci vediamo dal vivo, no, e siamo contenti. No, e poi... Se fossimo dei cani avremmo i codini che si muovono. Esatto. No, e poi non avevo ancora preso in mano questo libro. Che è bellissimo. No, veramente Roberta, è un libro che è una grande scoperta. Io sicuramente lo prenderò in mano questo libro, seguirò anche la web serie e Danilo farà altrettanto, prenderà in mano il mio CD. No, ma noi sai cosa faremo Roberta? Il 24 venite al Bravo Caffè. Il 24 vengo al Bravo Caffè col libro e tu mi dai il CD come ho fatto adesso con Stefano, che gli ho portato il libro e lui mi ha dato un altro libro, cioè è la new economy, questa. Lo scambio. Si ritorna alle origini, al baratto. Ok, esatto. Quindi abbiamo anticipato che Roberta è in trasmissione con noi per anticipare questa cosa, la data del 24, però in realtà il disco L'oscurità di Guillaume, che è il tuo primo disco da solista, uscirà, esatto, ancora prima, il prossimo giovedì. Esce il 20 gennaio, data tonda, semplice, e sarà possibile, lo dico, ormai sono una dea del marketing, sarà possibile ordinarlo dal mio sito web, sì, www.robertagiallo.com, formato fisico, e poi per il resto c'è sempre il mondo online per scaricarli, invece per chi ama ascoltarselo sul cellulare piuttosto. Una che... dea però, del marketing. Ormai sto diventando una dea del marketing. Sì. Senti, Una diosa di marketing. Senti, c'è un numero di fax per ordinarlo? Non l'hai previsto. Bisogna andare sul sito, però è tutto predisposto. Cioè, si paga con PayPal, ti arriva a casa, autografato. È più simpatico, mando anche dei disegnini. Meraviglia. PayPal è la versione di PayPal fatta da Paul McCartney, perché così quel 7% se lo prende lui, giustamente, è perché ne ha bisogno. PayPal. Marketing istanno. Niente, ormai ci siamo evoluti così, ognuno vende proprio da sé, capito? Per forza. E nell'attesa che arrivino questi momenti di scambi nelle prossime settimane, preparate il registratore. Esatto, perché noi trasmettiamo in Coxo anteprima, quella sicuramente, uno dei brani, il secondo singolo che hai lanciato da questo album. Dico bene, Roberta? Certo, guarda, mi è venuto un brivido quando hai detto che stavi per passare il pezzo In amore muoio di frontale, che fra l'altro è già stato scaricato un bel po' da quando l'hai messo. Dici un po'. Ho raggiunto, giusto per fare un po', per autogasare. E ci piace. Ho raggiunto addirittura la seconda posizione nella chart World Music di iTunes. Aspetta, c'avevo gli applausi? No, non ce li ho, sto giro gli applausi. Ah, mannaggia, vabbè, ma tanto... Però ho questo. Niente, però, sopra, ho questo. Così la gente non lo registra. Ho questo intanto. Ecco, il secondo. Infatti lo devono scaricare. Sopra. impossibile. Così come si scarica anche il water, che va scaricato sempre nei luoghi pubblici e privati, uguale si scaricano le canzoni. Poi quando ci sarà il videoclip su YouTube magari molti se lo guarderanno, ascolteranno da lì, però intanto nell'attesa del 20 che esatto, il videoclip lo scaricate. In attesa del 20 ascoltiamo adesso In amore muoio di frontale. Baci. Ciao Roberta. Ci parlo sopra. Ciao, perché Petra, così la gente non lo registra. L'innamoramento facile. Il mio sguardo è così docile. Lasciarsi accarezzare da ogni minima distrazione. Oh sì, oh, l'innamoramento facile. Non mi importa se raccolgo briciole. Ma me piace farmi fulminare, in amore muoio di frontale, ma ora sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare, io che cosa saprò portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto, e innamorarmi di te mi porta via da me, innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto. Facile, cresce con intensità invidiabile, ma sai questo mi fa stare male, quando non la posso controllare, ma sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare, io che cosa saprà portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto, e innamorarmi di te mi porta via da me, e innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto, alle volte non mi sopporto, no, alle volte non mi sopporto, io proprio non mi sopporto, ed è quando non mi sopporto che io fugo da me per perdermi in te, scordarmi di me. Abbastanza con questo basso livello di radiofonia. No, il basso livello di radiofonia è troppo presto. No, dicevo, è abbastanza spaventoso sto pezzo. E dice Raio: ciao, ascoltarvi è come bere un cicchetto. Buon coxo è un 2017 spaventoso. Ah, posso però dire. Posso dire altrettanto a te, Raio. Adesso abbiamo perso Fedra che ha detto che andava a casa e basta. Come andava a casa? No. Dove è andata? È andata, è andata a casa. Ma pensa a te. E dunque l'abbiamo annoiata alla morte, è andata a dormire nell'altra stanza con William Piana, che è molto più simpatico di noi. Dicevamo, ma cos'è sta musicaccia che ci abbiamo di dietro? Bello figo. Beh, è bello. non pago affitto. Allora, questo cos'è che stavano dicendo di una serie televisiva? Ah, sì, no, la web serie. La web serie con gli Umarels. Ma è seria? È serissima perché c'è Paccosi, stranamente, e tutto quello che Paccosi tocca dove c'è diventa Paccosi oro. Serie. Sono due attori potentissimi, uno si chiama Riccardo Paccosi, appunto, e l'altro invece si chiama Michele Vietri. Lui non lo conosco. Che è ancora più bravo di Riccardo Paccosi. Sarà che Paccosi, Michele Vietri fa il regista. Ah, ok. Io scrivo i testi. Mm-hmm. E poi sarà una web serie dove sono tante puntate che durano un minuto, dove ci sono questi due Umarels, che però non sono degli Umarels classici come quelli che ho descritto in tutti i miei libri, ma sono due Umarels particolari, perché, attenzione, sono due fuorisede, capito? Sono due fuorisede anziani. Ah, questa è già una novità. Ma, io sono convinto che comunque a Bologna ce ne siano non pochi di fuorisede, sì, anziani. Ma questi però sono, diciamo, insomma hanno la nostra età comunque, no, cioè, sono lì con le mani dietro la schiena. Ridi e scherza, cominciamo a diventare un po' anziani anche noi. Esatto, sono lì con le mani dietro la schiena che osservano la città, i mutamenti, e questa serie avrà tante pillole da un minuto, andranno in onda su YouTube, c'è la pagina Facebook Ritorna al Cantiere. Fuori sede anziani. E non posso ancora dire nulla. Vuoi sapere come si dice in ungherese? Sì, fuori sede anziani, come si dice? Fuori sede idioshek. Vabbè, sì, no, lo sapevo. Però fuori sede, forse non l'ha capito. Ah, ecco perché mi dice, did you mean fuori sede anziani? Yes. Allora, vedi, allora si dice tavoli. Ecco. Senti. O tavoli, chissà, tavoli idosek, tavoli idosek. Sì, insomma, i protagonisti della serie sono due tavoli idosek che sono lì davanti a un cantiere e parlano. Ad esempio, tipo nella prima puntata, sono lì, inizia proprio così: con uno che dice Soc, e l'altro dice Soc che zagno a tal deg. E allora uno si accorge che sta la parlando pronuncia in dialetto. Perché sono dei fuori ma sede, però certo. Non è, allora dice scusi ma lei, che poi fra l'altro io e te facciamo fatica a, esatto, fare l'accento sbagliato, esatto, dice, perché... scusi ma lei è di Bologna, e da lì inizia tutta la storia. No, sono tante puntate bellissime, sono un minuto, perché comunque io sai che sono un esperto di comunicazione web, Sgombero Cantini e Solai, e il minuto, insomma, è giusto, è il tempo giusto. Un minuto la gente sta lì, lo guarda, ma capito? Sì, di più già, vanno via, esatto, di più. Già quattro su Facebook la gente. Quanti ne hai già realizzati al momento, e quando partirà di preciso? Allora, no, partirà la prossima settimana. Ma è un coxo scoop! La prossima settimana? E no, è già stato annunciato da Repubblica. Sì, online, per il coxo è uno scoop, sì, no, certo. E mentre ero qui, un robot ha pubblicato su YouTube al mio posto. Ah, okay. Cioè gli assistenti robotici. Ma ho programmo io tutto quanto. Infatti, questo è una cosa interessante. Perché tu dici: ah, sei sempre al computer. No, cioè io programmo. Cioè, mando delle codico. Allora alle 21:30 va in onda questo. Ma sì, anche perché ci sono degli orari che sono consigliati per rendere più visibile il media che, esatto, pubblichi. Esatto. E quindi adesso online è appena andato in onda delle immagini del making of di Ritorno al Cantiere. Ma che senti, è il titolo della serie. Si può dire con come ti sei organizzato per la realizzazione, chi fa parte di questa squadra, come hai individuato i due Omar Els? No, l'abbiamo detto prima. Ma invece il messaggio all'ultimo di Raio l'hai già detto? L'ho già detto. Ma allora io ritorno via. Ritorna al futuro. Però era una bella domanda questa. Ma io riascolterò la domanda domani su www.coxospaziale.blogspot.com, dove sarà pubblicata questa super mega galattica puntata. Ah, giusto, mm-hmm, giusto. E allora io la condividerò, anzi il robot la condividerà. La farei condividere dal robot sulla pagina di Ritorno al Cantiere, che è il nome della serie, che è uno dei miei tantissimi progetti sugli Umar Els, che ormai gli Umar Els per me sono diventati un lavoro. Anche dei compagni di vita. Una seconda, sì, casa, tipo. Sì, anche un cosmo, una galassia. Ci pago l'IMU. Del resto, no, l'IMU del tuo SUV bianco, ma sì, questa cosa qua del fatto che con tutti i tuoi libri ti sei comprato un SUV bianco, poi è spaventoso, c'è un'invidia, sì, sì. Nella un'invidia. Bologna il peggiore è possibile, ti odiano semplicemente per il SUV bianco. È vero. Hai un SUV bianco? Lui ha un SUV bianco. Quasi quasi lo odio un po' anch'io allora. Sì, perché io grazie alle vendite dei libri ho fatto tanti soldi e ho comprato un SUV bianco. Adesso infatti questo libro, cioè principalmente l'ho fatto uscire perché il SUV comunque sai... Comincia a avere una certa età, infatti cioè comunque cioè con l'anticipo SUV già non è estremamente scomoda come macchina da guidare, dare così grossona nelle strade italiane che non è lo scomoda, so. Ma però cioè per apparire, capito? Cioè, tu devi far vedere che sei un gran sborone così, e poi bisogna che sui social la gente ti invidi sulla base di niente, certo. Quindi ma sei diverso? Questo è... Senti questa? Va bene. Possiamo? Sì, tanto sì. Solo 53 secondi. 53 secondi, questa è la... diciamo l'anteprima un po' di Ritorno al Cantiere, dove sono i due Marella, Riccardo Paccosi e Michele Vietri. Qua ci sono anch'io, ecco, io non apparirò però nel coso, io scrivo solamente i testi di questa serie. Ma il cappello Riders te l'hanno regalato col Suv Bianco? Il cappello Riders l'ho comprato tipo nel 91-92 ad Amsterdam, che c'era un gran freddo e un gran gelicidio. Eccoli. Sogno a Taldeg. Ah, è questo quello, sì. Fuorisede. Scusi, ma le posso fare una domanda indiscreta? Certo, faccia pure. O lei è di Bologna? E qua, prosegue. Quindi, secondo te è di Bologna? Secondo me non è tanto di Bologna. Neanche secondo me. Infatti, se dopo si farà la prima puntata. La prima puntata. È un umarel fuori sede. Ma di dove? Di dove? L'incontro. Dove sarà? Di Padova. Sì, sono veneti. E ci sono anche le sdaure fuori sede, secondo no, te? No, poi cioè qua comunque. questa come mi guarda? Questa con serie... il mio fascinoso sguardo. Esatto. No, la Roberta Giallo è una Zaura fuori sede, no? Beh sì. Ma sì. Tutte lo diventeremo prima o poi, no? Quelle che non sono nate a Bologna. Certo. Questa serie comunque prevede in futuro che oltre ai due personaggi ci saranno dei guest. Quindi, me lo immagino. Quindi potreste partecipare anche voi. Capito? Beh, io il bulbo grigio ce l'ho già. Quindi, Ma invece sposare una fuorisede, che significanza ha? Ma scusami, è bello, è bello, è bello. È bello. Tua moglie non è bolognese? Mia moglie è bolognese. Ecco, io ho notato tutti una cosa. Tutti e due avete mogli non bolognesi? Sì. No. Sì, abbiamo, è una cosa. Questa cosa. No, io è tutto imbarazzato. Ho fatto uno studio anche su questa cosa qua e ho scoperto che tutte le persone più interessanti e più folli che io conosco non hanno sposato una bolognese. Sì, perché moglie vuoi dei paesi tuoi, esatto. Per cui quindi voi automaticamente non siete folli e interessanti. Noi, esatto. Noi no, non siamo folli e interessanti. Però no. Siamo la pecora nera che perché conferma la vita. Le donne bolognesi hanno una bella tempra. Io le ammiro tantissimo, sono fonte di ispirazione e di ammirazione per me, quasi quasi mi intimidiscono anche. Ah, sì? No, io non avevo mai notato questo aspetto della tempra, così. Per me io... che vengo dal Veneto, che la donna è sempre lì che deve fare tutta la tipi carina, no, così non si fa, insomma tutte le figaree si chiamano da noi, sì. Le donne le bolognesi che ho incontrato quando sono arrivati qua era un modello completamente diverso, che ti dicevano quello che avevano in faccia, non te la mandavano a dire e riga dritto, perché sennò insomma donne con due ovaie spesse. Bello, bello. Tipo la Sdaura Spider. Sì, tipo la Sdaura Spider. Infatti, la Sdaura Spider. Quindi. Sarà ma, per sì. Il tortellino che devi andare lì, cioè al lavoro duro, no? Ma non so, comunque è molta. C'è molta apparenza questo aspetto qua, comunque. Vabbè. Di base, comunque, insomma. Non pago affitto. Insomma, esatto. Cioè, donne, dai. Io non pago affitto. Insomma, comunque. Cioè, di base, che com'è? Che... Come sono queste donne? Oh, Stefano, non lo so. Stefano, ma secondo te possiamo metterlo al coxo? Cosa? No, ma lo chiamiamo. Ma non ci viene, ormai è già stato in televisione nazionale. Beh. Guarda che tu dici che glielo chiede Masotti e viene? Ma sì che viene. Chi? Bello Figo? Certo. Ma certo. Ma di dov'è? È di Borgo Panigale. È di Udine. È di... No, non lo so. Ok, di nuovo questo vuoto, ci sta il secondo vuoto cosmico in trasmissione, va bene. E io quando facevo radio tanti anni fa, a Radio Città, che non era Fujiko, forse era la stessa alla fine, all'origine, cioè. Sì, no, all'origine era Radio Città 103. Allora diciamo e questo buco è stato offerto dalla ditta Culo. Dalla ditta Cox nel nostro caso. Comunque è arrivato un messaggino per riempire i nostri momenti di panico, di orientamento. Sempre con quello degli altri. Quando c'è Masotti mando sempre messaggi, è tradizione. Ah, Giancarlo Lolli. Oh, grande. Giancarlo Lolli, detto Riccardo. Che mi ha detto che suo nonno, sì. Il suo nonno Claudio sta uscendo con un nuovo disco. Ah sì? Sì. Ah però. Sì. Magari chiamiamo in trasmissione il nipote Giancarlo. Giancarlo. Perché tanto a noi del nonno. Esatto. Cosa ce ne chiamiamo il nonno e poi no, va bene, poi con il coro degli Ma Zingari scusami, Felici. Giancarlo Lolli è il nostro Lolli dei due minuti? Sì, è sì. Lui. Ma come? Si chiama Giancarlo? No, si chiama no. Riccardo, però Riccardo, però quando è in trasmissione quando è con Masotti, me si chiama Giancarlo. Ah, ho capito, perché voi siete un trio di amiconi. Sì, insomma. Ma invece dimmi, vai. A Punto Radio sì. Ci vai ancora ogni tanto? Perché sai che io da una vita che non ascolto il nostro amico. No, ci sono stato di recente ospite. Il nostro amico Donda. No, sono stato di recente ospite da Pinotti. Pinotti, che non bel cognome, molto stanzonista. Mi perdoni, ma perché sai se facciamo le Valerio che si accavallano. Ma se ti faccio vedere la foto lo riconosco. Ma avete già detto come vi siete conosciuti voi due? Ah, bello come ci siamo conosciuti. Questo c'è, l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto la trasmissione, però lo facciamo dire. Lo possiamo dire. È molto bello come ci siamo conosciuti. Lui tirava addosso alla mia fidanzata quando io facevo liceo. No, io e la mia fidanzata facevamo liceo. Esatto. Ogni tanto si presentava lui con degli altri maragli tipo Pavlidis. Sì. Fuori dalla, e poi dopo tirava spudoratamente addosso esatto. alla mia fidanzata. Esatto. Cioè, no, perché c'era da bravo, certo, perché da bravo Marel, siccome abitavano molto vicini, lui si metteva già comodo, no? Sì, sì, era comodo. Perché in quegli anni comodo. Lì si usava a fare così, no? Perché era si epoca... trovava una fidanzata quindi... nel giro di 200 attenzione, metri da casa. Però, okay. Ecco, questo per far vedere come siamo cambiati, io e Pasquini, questa era bolognese. Questa era bolognese. Vedi, esatto. Questa. Ed era nel raggio di 200 metri. Io sì. L'ho trovata nel raggio di 200 metri da dove andavo a scuola. Quindi questo significa che tu non eri del liceo artistico? No. Ci abitavi vicino? No, abitava vicino alla mia fidanzata. Ah, ok. E arrivo... no, io ho completamente sbagliato scuola, completamente sbagliato tante fatto? Cose, ho fatto ragioneria. Sai che rimpiango di non averla fatta? Ma perché? Mi mancano certe basi della stabilità, capire le regole della statistica. Ma no, anche. No, non hai perso niente. Però avevo tutti, però insomma non c'entravo niente, quindi... conoscevo della gente tipo Pasquini, Maggi. Bazzicava al Casalone o al liceo artistico. Sì. Dove poi io avevo una band che era un cantante. È vero, no? Perché poi c'era anche da dire questa cosa: che i New Ironia che esistevano da tanto tempo. I New Ironia? Certo, erano la mia band. Eravate quindi due band rivali, magari. Dove eravamo le uniche due band che facevano rock demenziale. Punk demenziale a Bologna. In italiano. Allora, bene, adesso vi chiedo un'altra cosa. Entrambi, in quel periodo, quali erano i vostri brani con cui cioè più rappresentativi del gruppo, i titoli? Rotella. Poni il pene sul pane. Mi togliti piace. Il boxer e fate una beep. Una coxa. Sì. Quel periodo... E poi dopo mi sono ricordato l'altro giorno che c'era una canzone che diceva due nomi di due professori, Claudia Fagiolino e Fraboni, non mi ricordo come si chiamava di nome. Non doveva essere facile la vita per quella prof. Che hanno segato Chicco, che era il nostro amico sì? comune e chitarrista dei Ghetto 84 e sempre un'altra band, però non erano demenziali, loro erano serissimi. Sì, che erano più demenziali di noi alla fine. Se mi becco vi ammazzo. Ecco. E questa era la canzone che cantavo io. E dopo, grazie alla canzone, mi sono ricordato che il nostro amico Chicco è stato segato, cioè è stato bocciato durante il liceo artistico, per cui non l'ha finito con noi. Bene, sono molto bellissimi molto momenti. Contenta. Bellissimi visto che bello. Anzi, mi userei le parole del nostro direttore. Questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Sì, perché ormai siamo giunti. Tocca Lolli, però siamo hai sbagliato. Giunti. Perché Lolli non è la sigla. Ma Lolli non è la sigla. Bisogna dire al direttore che ce la riregistri usando un'altra parola. Ah, ascoltiamoci Lolli. Esatto, sì. Che almeno ci tira su. Io l'unica cosa, volevo parlare anche del mio progetto Midarels, ma ne parlerò in un'altra puntata. Tornerai a trovarci, quando? Diccelo subito. Ma ci mettiamo d'accordo con Pasquini. Il 7 marzo. Ma no, facciamo a febbraio, mi sa che è un progetto imminente. No, Midarels andrà avanti per tutto il 2019. 17, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. È un progetto dove faccio io e un altro socio facciamo lavorare comunque gli Umar Els, quindi Maestro basta col lavoro dei giovani. Maestro Masotti, io la ringrazio. Grazie a lei. E spero che queste settimane passino la svelta fino a che non tornerà. Ma io tornerei ad aprile. Ad aprile dolce dormire, mi sembra un'ottima idea. Ascoltiamo, vi salutiamo, grazie per aver ascoltato la 167esima puntata. Ma sei sicuro che non è 168? Coxo spaziale, assolutamente, cioè tu appunto tu non hai fatto ragioneria, per cui ribadisco questa cosa ci ascoltiamo i due minuti di Lolli. Buono. I due minuti Giancarlo. Di Lolli hanno una durata percepita variabile. Il mare è vita, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità.